Sicuramente un titolo provocatorio, come un po' tutte le espressioni, gli slogan dell'accelerazionismo sono espressioni provocatorie, il comunismo di lusso, la piena automazione, l'abolizione del lavoro, e quindi anche in questo caso abbiamo scelto una vita in vacanza proprio perché vuole essere un momento di raduno nazionale, anche se noi preferiamo dire translocale per evitare appunto la nazione, di tutte le persone che si riconoscono in questo immaginario, in questo movimento di pensiero, accelerazionismo di sinistra, che ha cominciato a divagare dal 2016 al 2018 in Italia, arrivando da Inghilterra e arrivando tra l'altro soprattutto per via memetica, perché poi sono stati i meme il principale veicolo di questa nuova utopia, no? Di questo spirito, di questa sinistra libidinale che cerca di riportare alla memoria quelli che sono quello che è il sogno, no? Della lotta comunista, anarchica, del regno della libertà. Quindi è un momento di ritrovo a livello nazionale durante il quale si libererà l'immaginario, si parlerà appunto dei limiti ma delle potenzialità di questo movimento di pensiero, e il punto di riferimento sarà il pensatore che ormai è divenuto celebre, che è Mark Fisher, proprio perché il 13 gennaio è il giorno in cui Mark Fisher si è tolto la vita nel 2017. Mark Fisher è stato un critico culturale che è stato molto importante per la divulgazione e la propagazione di questo movimento di pensiero accelerazionista, e il suo concetto di realismo capitalista è essenziale per la nostra epoca, perché viviamo in un'epoca in cui non siamo in grado di riuscire anche solo a immaginare un'alternativa al capitalismo nel quale siamo immerse. Dunque, organizzare un ritrovo della sinistra accelerazionista, che tra l'altro è il secondo perché si è tenuto per la prima volta l'anno scorso a Roma, significa ritrovarsi per rompere il realismo capitalista, cioè per liberare l'immaginazione e capire anche come possa questa immaginazione trasformarsi in realtà. Tu già facevi cenno anche ai precedenti storici, anche a metà degli anni 70 c'è chi immaginava di liberare l'uomo dal lavoro, però l'obiezione che sicuramente vi hanno fatto più spesso è quella di constatare che nella nostra società ci sono dei rapporti di forza per cui chi detiene il potere è difficile che sia disposto di rinunciare a parte dei profitti. Ecco, cosa rispondete a questo? Beh, allora diciamo che l'accelerazionismo di per sé non inventa nulla, nel senso che non si tratta di una teoria rivoluzionaria nuova o di qualcosa di originale che si aggiunge a ciò che fondamentalmente è la lotta comunista, anarchica, insomma la lotta militante per la liberazione dal capitalismo, dal patriarcato. L'accelerazionismo fondamentalmente si inserisce all'interno, insomma, di tutta la nostra lotta, della storia della nostra lotta, semplicemente però ricordandoci una serie di elementi che ci sono stati dimenticati. Giustamente hai citato gli anni 70, l'autonomia operaia, lavoro zero, reddito intero, quindi l'accelerazionismo alla fine non inventa nulla, non fa altro che ricordarci dei concetti, dei principi che sono sempre stati essenziali nella nostra storia in passato. Per esempio anche il tema del progresso tecnologico, dell'emancipazione umana attraverso la tecnologia, era già patrimonio del cosmismo russo, del futurismo russo 100 anni fa, oppure anche in generale tutta questa centralità che viene data al desiderio era già patrimonio del 77 a Bologna. Quindi stiamo parlando fondamentalmente di una specie di movimento di pensiero che è come se fosse un dispositivo di estrazione di un rimosso dalla memoria collettiva, no? Cerca di ricordarci alcuni principi fondamentali, il primo dei quali è l'utopia, cioè il fatto che la rivoluzione, se vogliamo costruirla, deve comunque partire da un'utopia mobilitante. Dopodiché, diciamo, gli assi, diciamo, tradizionali, ortodossi rimangono quelli, cioè si tratta fondamentalmente di mettere in comune tutti i mezzi di produzione, tutte le istituzioni. Quello che però ci ricorda l'accelerazionismo è che abbiamo la necessità di capire come fare, cioè abbiamo la necessità di immaginare il modo, per esempio, in cui noi vogliamo costruire una società tutta autogestita, in cui le aziende diventano fondamentalmente dei commons autogestiti da tutte le persone che attraversano queste istituzioni. Quindi alla fine si tratta di non buttare via nulla di tutto ciò che è stato, però si tratta di cercare di inventare oggi il modo in cui noi vogliamo riprogrammare la società, il modo in cui vogliamo rifondare il nostro mondo. Quindi alla fine non è nulla di nuovo, non è nulla di originale, però è un'occasione per tornare a ricordare quelli che sono gli assi fondamentali della nostra militanza. Di nuovo però nella nostra società ci sono avanzamenti tecnologici che rendono potenzialmente possibile questa strada, no? Assolutamente sì, cioè noi viviamo in una società che già, io sono convinto, già pienamente automatizzata, nel senso che una provocazione che diciamo sempre è che chiediamo di cercare un oggetto intorno a noi, ma proprio uno, dagli occhiali, ai vestiti, alla borraccia che possiamo vedere di fronte a noi sul tavolo, che non sia fatto per almeno l'80% dalle macchine. E noi viviamo già in una società estremamente tecnologica. Il problema problema è che questa automazione è nelle mani del capitale. E lo stesso Marx, no, nel frammento delle macchine, che è il primo frammento accelerazionista, no, considerato nella letteratura accelerazionista, aveva previsto, cioè, un mezzo di produzione che si trasforma in macchinario, cioè in questa piena automazione dove l'essere umano sarebbe stato soltanto una protesi, no, di questo capitale macchinario pienamente automatizzato. Quindi noi già viviamo in una società dove la piena automazione è praticamente al servizio del capitalismo e oggi il lavoro è quasi inutile, ma viene utilizzato soltanto come strumento di dominio. Il punto, come dice Marx, è che il capitalismo non è l'unico modo di produzione per poter organizzare il macchinario, no? Cioè per poter gestire la piena automazione. Quindi più che parlare di tecnologia, noi dobbiamo parlare di come vogliamo appropriarci della tecnologia, come la vogliamo riprogrammare, come la vogliamo mettere in comune, come vogliamo anche mettere i frutti dell'automazione in comune. Ovviamente un asse fondamentale è il fatto che abbiamo bisogno di riappropriarci collettivamente degli strumenti dell'automazione, della tecnologia, cioè abbiamo bisogno di un'organizzazione, di un controllo popolare dell'automazione. Però anche qui si tratta di capire come, no? È sempre una questione di immaginario. In termini di slogan siamo d'accordo, più o meno ci troviamo un po' tutti e tutti d'accordo su questi principi che appunto non sono nuovi, però quello che si chiede il movimento accelerazionista è proprio di immaginare concretamente, di inventare il futuro, per citare un'opera importante del pensiero accelerazionista, cioè come possiamo concretamente noi riprogrammare la società in maniera tale che l'automazione diventi qualcosa che produce l'essere umano, no? Che arricchisce la sua vita, che si potenzia il nostro benessere, che ci fa vivere, come si dice qua a Bologna, una vita bella. Questa è un po' la domanda che dobbiamo porci. Gli appuntamenti durante la giornata saranno vari, e brevemente ce li puoi raccontare? Sarà una giornata che si svilupperà in università, quindi nel cuore di Bologna, in via Zamboni, al numero 38, e partirà dalla mattina fino alla sera. Alla mattina c'è un momento più per le persone, diciamo, che proprio si riconoscono pienamente accelerazionisti e quindi vogliono partecipare ad un'assemblea aperta, tutte le persone che si riconoscono in questo immaginario, in questo movimento di pensiero, ed è un'assemblea aperta che prende il titolo di A che punto siamo, proprio per fare il punto della situazione come livello del movimento. Dopodiché alle 14 inizierà il primo dei due grandi blocchi tematici, che si chiama appunto Programma per una politica accelerazionista, e sarà molto interessante perché si concentrerà su un concetto di Marx Fischer poco noto, perché appunto Marx Fischer è noto per il realismo capitalista, ma alle 14 invece parleremo di questo concetto, è quello del realismo comunista. Cioè Marx Fischer dice: noi dobbiamo anche sapere come si realizza, no, questa nostra utopia, dobbiamo riuscire a capire come trasformare in realtà la nostra utopia. Quindi sarà un blocco sul programma accelerazionista. Alle 16 invece ci sarà un laboratorio iperstizionale. Iperstizione, per capirci, un concetto molto stimolante dell'accelerazionismo, è un po' come la superstizione, cioè una finzione nella quale ci si può credere, no? Come il gatto nero che ti attraversa la strada, tu ci credi che ti porterà sfiga. L'iperstizione invece è un meccanismo per cui la credenza è talmente forte che poi trasforma noi stessi e trasforma anche la realtà, e quindi la capacità di trasformare in realtà un'invenzione. E quindi ecco, a partire da questo concetto svilupperemo un laboratorio iperstizionale dove, con delle tecniche molto stimolanti che vengono dal primo collettivo che negli anni 90 ha fondato ha dato inizio all'accelerazionismo, cercheremo di liberare la nostra immaginazione rompendo il realismo capitalista e provando a immaginare in maniera laboratoriale il futuro liberato dal lavoro. Alla fine, dopo questi due blocchi tematici, ci sarà alle 18 un'assemblea di chiusura che si occuperà soprattutto di prassi, e quindi di fatto il titolo è Pratiche comuniste di lusso. La serata poi sarà una serata di gioia in comune, si chiama questa serata che si chiama Tecno Libidinale dal Futuro, perché ci saranno alcune performance vocali mentre si balla un po' di tecno dentro a Zamboni 38, che serviranno proprio per liberare un po' il nostro immaginario. Quindi ecco, insomma, sarà una giornata assolutamente stimolante per chi si trova a Bologna, è sicuramente un'occasione per provare a respirare anche soltanto un po' di speranza, anche soltanto un po' di sana utopia, che in questa epoca distopica ci fa bene, potrà essere stimolante, arricchente, e anche un'occasione per trovarsi insieme.